in primo piano. Le aperture dei giornali oggi sono svariate. Il Sole 24 Ore apre su un tema finanziario: bufera su BPM, la Banca Popolare di Milano, crollo in borsa e PM in campo. Alla Procura di Milano il verbale di ispezione Banca Italia. C'è chi sceglie la vicenda Bisignani, l'inchiesta P4, la rete ombra di Bisignani, così titola il Corriere. Per il Fatto Quotidiano, tutte le telefonate di Bisignani, pronto, chi trama? Per il Giornale, botte per tutti, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, D'Alema, Bocchino, eccetera, le carte di Bisignani. Libero, i segreti del vice Letta. C'è chi sceglie la questione Libia come Repubblica, Libia scontro Lega Quirinale. Per la Stampa, Napolitano stoppa la Lega, in Libia restiamo schierati. Per Avvenire, l'altra battaglia di Libia, Napolitano restiamo schierati, Maroni missione inefficace. Il Messaggero invece sui ministeri, sfida in Parlamento. Per l'Unità invece la foto di Berlusconi e il titolo piovono pietre. Bisignani, Mora arrestato, Alemanno sui ministeri e Moody's, le aziende italiane messe sotto esame. Vabbè, questa è l'apertura dei titoli. Come detto, noi partiamo proprio dai rifiuti, perché di quello parliamo alle 8.30 nel tema del nostro sondaggio. E beh, oggi, stranamente, uno dei giornali che è più critico nei confronti di De Magistris è Repubblica. Rifiuti la trincea di De Magistris, il mio piano sta naufragando, ma bloccherò questo sabotaggio. Un'intera pagina, pagina 15, nella notte tra l'altro c'è stato un vertice a oltranza in prefettura del quale parleremo, del quale cercheremo di capire cosa è successo. Chiamate il prefetto, non ci muoviamo da qui finché la situazione non è risolta. Alle 19 Luigi De Magistris sbotta, i suoi 5 giorni stanno scadendo, così racconta Roberto Fuccillo su Repubblica. I suoi annunci su Napoli pulita rischiano di finire nello stesso album di quelli di Berlusconi e lui non ci sta. Imputato numero uno è il sindaco di Caivano, Falco, Antonio Falco, cittadina nord di Napoli, Caivano, destinataria di uno dei siti decisi del piano, ma il sindaco l'ha chiuso. La provincia ha dovuto cedere, il prefetto sta cercando di convincere il sindaco a riaprire questo sito, ma il sindaco tiene duro. I 5 giorni scadono oggi, la situazione è drammatica, dice De Magistris, ma siamo determinati a operare senza alcun tentennamento. Ovviamente anche il Giornale invece critica: caro sindaco, qui è meglio non fare il masaniello. Questo è un intervento di Marcello D'Orta, napoletano, scrittore. La monnezza è un problema secolare, annunciare di risolverlo in 5 giorni è stata una presa in giro. E tra l'altro su questo c'è anche Michele Serra che si concentra con la sua amaca tradizionale di Repubblica. Luigi De Magistris, eletto sindaco di Napoli a furor di popolo e con grave smacco dei vecchi potentati di destra e di sinistra, si è tolto subito il peso del primo errore e ha imparato di conseguenza la prima lezione: mai promettere soluzioni rapide e miracolose, perché le piaghe vecchie di molti anni non si rimarginano per acclamazione. Le cordigliere di monnezza che ancora circondano Napoli sono il portato di un tenace, stratificato mix di errori politici, truffe, speculazioni, deficit di cultura civica. Meglio sarebbe stato dire ce la metteremo tutta, ma non sono in grado di promettervi un D-Day miracoloso. Siamo nella merda fino al collo e per liberarcene davvero ci vorrà il lavoro di anni, forse di generazioni. Perché De Magistris non lo ha fatto? Forse per il comprensibile entusiasmo del neofita. Lavori molto, invece, non prometta nulla e forse riuscirà a farcela. Così Michele Serra. Tra l'altro sul Giornale c'è un aspetto anche di un'inchiesta giudiziaria che riguarda i rifiuti a Napoli. L'ultima beffa, spariti i soldi della tassa sui rifiuti. Un'intera pagina 11 sul Giornale, Enrico Lagattolla racconta di come un'inchiesta della Guardia di Finanza di Milano, perché si indaga su una società che riscuote i tributi della tassa dei rifiuti a Milano, ma in realtà è la tassa dei rifiuti dei napoletani, pare, secondo un'inchiesta della Procura di Milano, che il denaro riscosso dai napoletani, invece di entrare nelle casse dell'amministrazione comunale, sarebbe finito nei conti correnti di questa società di Milano addetta alla riscossione e poi nelle tasche degli amministratori, che poi sono finiti in cella. 3 di loro sono ai domiciliari, è indagata anche una dirigente del comune. Insomma, cari napoletani, avete la monnezza per le strade e, secondo un'inchiesta della Procura di Milano, pure vi hanno fottuto i soldi che avete pagato per le tasse. Siete contenti? Ne parleremo alle 8.30. Ora ci fermiamo per 7 minuti. In primo piano. Alle 7.34 minuti, allora proseguiamo la lettura dei giornali in edicola. Come detto, c'è molto dell'inchiesta P4, la cosiddetta P4. Oggi trovate paginate delle cosiddette intercettazioni, un resoconto di intercettazioni. Indagato numero 1 Luigi Bisignani, come viene definito da Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che anche lui è finito nel tritacarne di questa inchiesta. Beh, in un interrogatorio: lo conosco da 40 anni, sono stato suo testimone di nozze, è una persona estroversa, brillante, ben informata, è possibile che qualche volta dica più di quello che sa. Con Bisignani intrattengo rapporti di amicizia, gestisco in modo istituzionale corretto come ogni altro questo rapporto, lui è amico di tutti, è l'uomo più conosciuto che io conosca. Bisignani è un uomo di relazione. E infatti, a leggere da queste intercettazioni, a leggere dai giornali, praticamente Bisignani intratteneva rapporti con tutti. Ora la domanda che si pongono i giornali e anche alla luce di questa inchiesta è: questo è un reato? Il Giornale, con Alessandro Sallusti, il suo direttore, in prima pagina scrive: 19.000 pagine di intercettazioni ambientali telefoniche, i PM di Napoli battono il nuovo record, proiettando la giustizia italiana nel girone dell'incredibile. Tanto sforzo per dimostrare che Bisignani, lobbista di lungo corso, dispensatore di consigli a volte non richiesti, conosceva e parlava lungo e tutti i giorni con mezza Italia che conta, ministri, onorevoli di ogni partito, giornalisti, finanzieri. Allora, la novità per quel che riguarda l'inchiesta è che tra gli indagati finisce anche l'amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti, che si dice sbigottito, indagato per favoreggiamento tra secolo. Apprendendo di essere iscritto nel registro degli indagati, dice Mauro Moretti, ho ricevuto una telefonata dall'onorevole Papa, l'ex magistrato di Napoli, che secondo l'accusa intratteneva rapporti con Bisignani e spifferava dei consigli ottenuti dalla Procura di Napoli a Bisignani, che poi li dava a chi di dovere. Questa è la ricostruzione dell'accusa. Ebbene, Moretti dice: ho ricevuto una telefonata dell'onorevole Papa che si lamentava di un disservizio causato da un controllore sul treno. Purtroppo di telefonate di quel tenore ne ricevo tutti i giorni. Ma a leggere dai giornali sembra che i tentacoli, ma lo dico in senso positivo, di Bisignani, nel senso delle relazioni, arrivassero un po' ovunque. Per esempio, il ministro Prestigiacomo, che dice in un colloquio, in un'intercettazione ambientale con lui: se escono le intercettazioni con me mi rovini. Ma ora dice: ero ironica. Manifestai, insomma, in senso ironico, preoccupazione per l'essere stata eventualmente intercettata, perché tutto può essere strumentalizzato. Oppure ci sono delle telefonate per le pressioni in Rai, la solita tentativo con il direttore generale De Masi di cacciare Michele Santoro. C'è questa intercettazione che viene pubblicata un po' da tutti: mandare via Santoro, o lo licenzi adesso o mai più, dice Bisignani in una telefonata a Mauro Masi. E poi: l'unica cosa, dice Masi, che mi è riuscita per ora è togliere la Busi, Maria Luisa Busi, ex del TG1. Anche sul Fatto Quotidiano: l'editto anti Santoro, Masi cacciò la Busi, Prestigiacomo sapeva, Bisignani sempre su Anno Zero, gli rompiamo il culo, dice del conduttore di Anno Zero Santoro. E poi ci sono le pressioni di chi per favorire giornalisti, Minoli, pare una telefonata anche con l'ex presidente di Confindustria Montezemolo, che faceva una telefonata, lui dice, di cortesia per aiutare Dvish Fenech in Rai. Oppure la giornalista Monica Setta, che dice: ora querelo tutti. Insomma, Dago Spia tirato in ballo, pare che Alfonso Papa avrebbe dato a Bisignani un SMS con un pettegolezzo su Vietti, cioè il vicepresidente del CSM. Qual è questo pettegolezzo su Vietti? Beh, il Corriere della Sera ci fa in un'intera pagina 6. La telefonata, eccola qua, parlano Papa, l'onorevole, e Bisignani. Papa dice: martedì sarò pronto, c'avevo un pettegolezzo su Vietti, t'ho mandato anche l'SMS. Eccolo qui il pettegolezzo, secondo secondo i giornali. Michele Vietti ha offerto una serata a quattro avvenenti ragazze che risultano lavorare all'ufficio legale delle Poste. Serata organizzata dal suo segretario Enrico Caratozzolo. Ah, risponde Bisignani. Hanno organizzato per la prossima settimana una festa privata in casa Vietti, dove ogni ragazza dovrà cucinare una pietanza. Fantastico, risponde Bisignani. Ufficio legale, eh? Va bene, però non scopriamo poi troppo la fonte, risponde Papa. Bravo, bravo, fantastica. Ed ecco Papa, i dettagli della serata possono essere pure quelli interessanti. Cosa si sono detti però? E con la scollacciata, insomma, risponde Bisignani. Sì, sì, scollacciata con le avance, promesse, promesse di interessamento. E per qualcuno uscirà pure una promessa di inserimento nel suo staff al CSM. Vietti ovviamente risponde una vicenda ridicola, già chiariti tutti i dettagli. Insomma, un gran chiazzone di fango su mezza Italia, il giornale infatti titola così, botte per tutti, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, D'Alema, Bocchino, ah c'è anche D'Alema che dice conosco Bisignani da 30 anni, c'è un SMS di Bisignani pare a Bocchino, domani si vota in commissione una cosa, mi raccomando su questo, e Bocchino, tranquillo, tranquillo, cioè una persona che tesseva rapporti davvero con mezza Italia. Sullo sfondo di questa inchiesta c'è invece tutta la vicenda politica. La vicenda politica fa segnare il dopo Pontida, sempre una tensione su alcuni temi. Il primo di tutti è quello della tensione istituzionale molto forte tra il capo dello Stato Napolitano e il ministro degli interni Maroni, perché Napolitano ha detto bisogna restare in Libia e il ministro dell'interno Maroni ha ribadito, ribadisco le parole di Pontida, cioè dobbiamo andarcene dalla Libia. E tra l'altro di questo parleremo alle 8:20, avremo il generale Cabigiosu che fa parte anche della NATO, consulente per la NATO, perché ancora una volta c'è stato un raid, è il secondo, parrebbe il secondo, un nuovo raid in cui sono stati uccisi pare 3 bambini a Sorman, 70 km ovest della capitale, 15 morti. Tra questi appunto 3 bambini c'era nel mirino l'abitazione di un vecchio collaboratore di Gheddafi che ovviamente non era in casa ed è rimasto illeso, ma pare che siano rimasti uccisi 15 civili in questo raid. Le tensioni certo ci sono, tanto che Libero la titola così a pagina 12, il vaffa del carroccio alla guerra di Napolitano, tensioni certo che fa sapere il Quirinale con Marzio Breda, pagina 11, non sia piegata la politica estera a fini interni, c'è da parte del capo dello Stato una preoccupazione per quel che riguarda la credibilità internazionale. La scelta di intervenire è stata proprio dopo le parole del carroccio a Pontida. Tra l'altro Marzio Breda fa sapere che il capo dello Stato è anche il capo appunto delle forze armate, quindi su questa missione di Tripoli si rischia uno scontro istituzionale non indifferente. Sullo sfondo di questo, oggi Berlusconi parlerà al Senato. Tra oggi e domani è prevista il voto, tra l'altro, di fiducia. Perché? Su che cosa? Sul rimpasto di governo. E i retroscena della politica si esercitano proprio su questo. Secondo Repubblica, Berlusconi teme il terremoto, con Francesco Bei a pagina 3. Qualcuno dovrebbe dire a Maroni di smetterla, sta tirando troppo la corda. Questa sarebbe la linea del Cavaliere. Cavaliere inferocito col ministro degli interni. Non è piaciuto al Premier il sapore ultimativo del discorso di Maroni a Pontida sulla fine della missione in Libia. Soprattutto non è stato gradito il tono quasi di sfida con cui il ministro si è rivolto proprio a Napolitano. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento, osserva un consigliere del Premier, è uno scontro proprio con il Quirinale, proprio tra l'altro nel giorno in cui, ricordiamo, Berlusconi va a parlare e a chiedere la fiducia su una questione richiesta dal Quirinale. Era stato il capo dello Stato Napolitano a dire ci vuole un passaggio parlamentare dopo il rimpasto di governo. Anche per Ugo Magri sulla Stampa, il ministro dell'interno che rimbecca il capo dello Stato ancora mai si era visto nella galleria degli errori istituzionali. Ieri la lacuna è stata colmata sulla guerra libica. Maroni ha sostenuto il rovescio esatto del presidente del Consiglio, che tra parentesi è appunto il comandante supremo delle forze armate. Logico che al Quirinale non ne siano lieti, ma il vero attentato politico è contro il primo ministro. La richiesta di una data entro cui sganciarsi dalla missione in innesca una bomba sotto la poltrona del cavaliere e pare di udirne il tic tac, perché effettivamente ora c'è questo tema della data di uscita dalla Libia e pare che Berlusconi possa indicare settembre come possibilità di via d'uscita. In realtà la missione NATO dovrebbe essere prorogata anche dopo settembre, ma secondo una linea, ma poi vedremo quello che oggi Berlusconi dirà al Senato, c'è stato anche un vertice ieri notte e bisognerà vedere se invece se si protrarrà questa missione NATO, l'Italia cosa farà? Potrà uscire a settembre oppure no? Poi c'è l'altro tema sullo sfondo, che è quello dei ministeri. Insomma, è un po' surreale come discussione quello del trasferimento dei ministeri o dei dicasteri o di alcuni uffici. Il sindaco Gianni Alemanno, il sindaco di Roma, sarà oggi ospite di Oscar Giannino alle 9. Questo è il tema centrale. Alemanno fa un'intervista anche al Messaggero. Basta con i ricatti, o meglio finirla e andare al voto. Mentre il Sole 24 Ore fa sapere in un calcolo di Nicoletta Cottone a pagina 14 che, dopo Pontile, proprio scontro sul trasferimento dei ministeri, sono oltre 33.000 dei 174.000 erotti dipendenti ministeriali che rischiano il trasferimento coatto al nord, se ci fosse il trasferimento dei ministeri come richiesto. In realtà per due ministeri senza portafoglio, che sono dipartimenti della Presidenza del Consiglio, cioè quello di Bossi e quello di Calderoli, era tutto già pronto, questa famosa frase di Bossi. Poi Berlusconi si è cagato sotto quando, dopo che aveva già firmato il documento. Sta di fatto che quanti sono i ministeriali, cioè i dirigenti e categorie funzionali che lavorano ai ministri, ai ministeri, ai dicasteri di Bossi e Calderoli. Da Calderoli operano 19 persone, fa sapere il Sole, di cui 16 non di ruolo. Dal senatore invece 17, di cui 10 non di ruolo. Quindi sarebbero 36 ministeriali che andrebbero nella città dove, beh, Monza sembra la più indicata, la città del Gran Premio di Formula 1. Ma in primo piano. Insomma, mentre la politica si interroga su temi più o meno seri, c'è la questione dei conti pubblici, la questione della manovra sullo sfondo. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia è tornata a ribadire: senza manovra saremmo nei guai. Con il rigore e la crescita, che devono essere compatibili, che sono compatibili. E tra l'altro il Sole 24 Ore a pagina 6 svela con Marco Mobile e Marco Rogari alcuni dettagli di questa manovra da 45 miliardi che il ministro dell'economia Giulio Tremonti starebbe mettendo a punto prima dell'estate. Enti e costi della politica, 2 miliardi di tagli. Questo è il titolo dell'articolo. Statali verso il blocco totale del turnover, dai costi standard 10 miliardi. Ecco, come recuperare questi 45 miliardi? Questo è il tenore di questo articolo. Bene, almeno 2 miliardi, se non 3, dalla razionalizzazione degli enti pubblici e dai tagli ai costi della politica, altri 10-12 miliardi dal passaggio per effetto del federalismo dalla spesa storica ai costi standard in sanità e ministeri, circa 1,5 miliardi dal pubblico, cui dovrebbero essere sommati i minori costi per le uscite per gli acquisti di beni e servizi, e ai quali si potrebbero aggiungere dai 2-4 miliardi nel caso in cui venisse dato l'ok all'immediato innalzamento graduale dell'età di pensionamento delle lavoratrici private. Insomma, il menù della manovra pluriennale da 45 miliardi diventa e comincia a diventare qualcosa di più di un semplice canovaccio, anche se il ministro Tremonti non ha ancora scremato tutte le opzioni. I tecnici del Tesoro stanno lavorando su questo, vedrete se volete tutti i dettagli a pagina 6, ma insomma qualcosa già vi ho anticipato. Per quel che riguarda la cronaca, beh, la notizia di cronaca del giorno sicuramente è l'arresto di Lele Mora. Lele Mora in cella per bancarotta, scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, pagina 24. Rubi, Berlusconi, le cene eleganti non c'entrano questa volta, ma gli assegni del cassiere di Berlusconi, Giuseppe Spinelli, indirettamente quelli sì. Insieme a che cosa? L'autogol di un'intervista TV sui propri interessi economici svizzera. A marzo Lele Mora esaltava proprio quanto in gennaio aveva negato ai PM, e cioè di aver negoziato all'estero molti degli assegni circolari per 2.550.000 euro. E dunque fatale fu questa intervista. Aveva detto ai PM una cosa, in un'intervista TV ha detto il contrario, e dunque i PM l'hanno arrestato accusandolo di aver fatto sparire 8,4 milioni di euro in Svizzera. Per piacere, possiamo fare presto, vorrei evitare di essere ripreso. Così Lele Mora ha detto ai finanzieri che sono andati in Viale Monza a Milano, dove c'è il suo quartier generale, ad arrestarlo. È un po' una nemesi, insomma, il fatto che Lele Mora, che ha costruito una carriera sulla visibilità, sulle telecamere, sui tronisti, sui festini, sulle feste, sul fatto di essere manager di tante persone, di una cosa si è preoccupato, ai finanzieri, per favore, possiamo fare in fretta prima che arrivino i fotografi e le televisioni? E tra l'altro ci sono una serie di racconti, di ritratti di Lele Mora. Beh, Paolo Colonnello sulla Stampa, pagina 15. Poi arriva il giorno che ti presentano il conto, scrive. Magari giusto un attimo prima della grande fuga svaniscono i ricordi degli amici potenti, le foto sulle terrazze bianche con valletti seminudi che ti massaggiano i piedi, le serate nei locali della moda, le interviste in TV. Puff! Tutto finito. Nello spazio di pochi minuti, in una bella serata di giugno, quando gli uomini della finanza si presentano negli uffici abitazione di Viale Monza, Milano, al posto delle agiografie interessate compaiono le descrizioni impietose dei giudici che parlano di spiccata propensione a delinquere, capacità di mentire, reiterazione del reato, inquinamento probatorio concreto, elevato pericolo di fuga. Insomma, questo è il concetto di quello che è scritto nel GIP. Le carte degli inquirenti, abituato a delinquere, stava per fuggire in Svizzera. Così scrive Paolo Colonnello sulla Stampa. Tutto questo, cioè questo clima da Bisignani, la Libia, la Lega, Lele Mora, eccetera, fa dare lo spunto a Staino, la vignetta, pagina 3 dell'Unità. C'è un generale, un colonnello che si presenta dal generale Berlusconi, rapporto rinchiuso in una stanza di guerra. Bisignani in prognosi riservata, Letta e Prestigiacomo colpiti di stricio, Lele Mora fatto prigioniero. Questo è il clima attorno a Berlusconi, secondo la vignetta dell'Unità. Vabbè, ci sono molti articoli della maturità. Ho sentito che nel GR è stato lanciato oggi Federico Taddia una straordinaria puntata, no? La notte prima degli esami, dalle 21:15 su Radio 24, con tantissimi ospiti, c'è giovanotti, cantanti, scrittori, artisti che racconteranno la loro maturità. Alla maturità si copia vecchio stile, domani parte, se non sbaglio, la maturità. Il secchione batte lo smartphone, così titola sul giornale un articolo di Eleonora Barbieri. Altro che smartphone, pare che il vecchio modo per cercare di copiare, non si dovrebbe dire, sia quello dell'aiutino, del compagno, il bigliettino trovato nei bagni, eccetera. Perché pare che ci sarà grande durezza contro gli smartphone. Infine, la Gazzetta dello Sport. Cari precari d'Italia, c'è sempre la panchina dell'Inter che vi aspetta. Inter appesa a un capello, sarà Capello, Fabio Capello, l'allenatore dell'Inter? Chi lo sa? Chi lo sa?